la libertà è andata via. Corri con me, anima mia, questa vita sai è difficile. E il mondo non si cura mai di te. La la la la la la la la la la la la la la la la. La vita vera è soltanto questa qua, e questo è il prezzo da pagare per la realtà. Ogni volta che ti guardo mi piaci come sei, e ogni volta che ti penso quanto ti vorrei. Corri nel vento insieme a me, corri nel vento insieme a me. Sul mare che lontano andrà, e poi sopra il cielo e la città. Grattacielo io e te. La vita insieme, perché no? Un nido forse ci sarà, da dove guardare tutta la città. Questa vita, sai, non è facile. Ogni giorno che passa, sempre in corsa sei. E questa terra, ma chi lo sa dove andrà? Noi uomini la distruggiamo, ma na na na na na na na na na na na na na na na. Essere felici non è semplice, ogni giorno devi combattere sempre un po'. La realtà supera la fantasia, e ogni volta che tu parti, tu non sei più mia. Corri nel vento insieme a me, corri nel vento insieme a me. Forse la terra da salvare c'è, e forse tu mi sai capire perché. Siamo nel vento io e te, siamo nel vento io e te. Su questa terra grande che ci accoglie come dentro un cielo blu. Questa vita, sai, è difficile. Basta entrarci dentro per bruciarsi un po'. Fatti sentire contro me le tue dolci labbra contro me. Vogliamo in cielo come due gabbiani che sono lontani, tienimi le mani.